Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Prendo il treno delle 7:30, dico al cellulare a Paolo mentre controllo l'orologio della stazione e cerco di ritirare il resto dal giornalaio che mi allunga il quotidiano che caccio in borsa prima che cada per terra. Nel frattempo vedo Lorenza, mi sbraccio per farle segno di raggiungermi. Intanto Paolo al telefono mi dà le indicazioni per raggiungere il convegno. E mentre cerco di memorizzare il percorso, timbro il mio biglietto e salgo in treno. Quante cose ha fatto contemporaneamente il protagonista di questa scenetta metropolitana di cui abbiamo camuffato la voce per chiedervi: sarà un uomo o sarà una donna? Giornata tipo dell'uomo, sveglia ore 7, si prepara per andare al lavoro, va al lavoro, lavora, torna a casa e si lamenta del lavoro. Finito. Giornata tipo della donna, sveglia ore 7, lava, stira, stende, cucina, annaffia le piante, pure quelle finte, spolvera, rammenta e per eliminare l'ultimo senso di colpa dà una piallata al parquet. E siamo ancora alle 7:10. Quante cose voi riuscite a fare contemporaneamente, a fare e a pensare. Siete insomma multitasking? Restate con noi e lo scoprirete. Intanto saluto il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, che è qua in studio con me, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno. Sì, un attimo che tolgo la giacca, mando un sms, leggo la scaletta e saluto la regia. Eccomi qui. Buongiorno a lei, Nicoletta, e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Buongiorno, professore. In effetti la vita moderna offre una serie illimitata di stimoli, di occasioni, di possibilità e anche di incombenze. Dobbiamo essere pronti a fare, a pensare mille cose insieme. Sì, la vita moderna è così, è frenetica, ci offre tantissime cose e abbiamo anche le tecnologie che ci potrebbero far risparmiare del tempo. Va bene, ma nonostante tutto questo il tempo sembra mancare continuamente ed ecco così che lavoriamo in multitasking. Che cosa significa? Significa, allora, task deriva dall'inglese compito, molte attività, quindi molti compiti che noi facciamo nello stesso momento. Ad esempio andiamo in bicicletta e conversiamo con un amico, oppure guidiamo l'auto e parliamo col passeggero, oppure parliamo al telefono e giriamo la minestra. Sono tutte attività che noi quello è un classico, parte della quotidianità, il sugo, buttare la pasta e parlare al telefono, sì, con l'amica o con la mamma. E nel frattempo c'è anche la radio accesa che sta andando, che sta trasmettendo il programma Essere Benessere, certo, alle 11. E questo, che cosa succede? Che lo stesso impegno, mentre, allora, un compito è automatico, sì, l'altro compito invece richiede attenzione. Noi ad difficilmente esempio riusciamo a fare due compiti che richiedono attenzione. Ad esempio, sì, noi possiamo parlare col passeggero, quindi sì, richiede attenzione, e guidare, che è un'azione che va in automatico. Sì. Se capita però che si presenta un pericolo, noi interrompiamo subito la conversazione e spostiamo l'attenzione, certo, sulla meglio sulla tenere guida, l'attenzione sulla strada. Assolutamente. Comunque. Noi abbiamo chiesto su Facebook ai nostri amici quante cose riescono a fare e straordinariamente hanno risposto tutte ragazze. Cesarina dice: riesco sì a fare più cose contemporaneamente, quasi a chiederlo, no? Babi: troppe, mentre si vive il presente la mente già nel futuro. Valentina risponde secca: decisamente sì, mentre per Bea è una questione di volontà e di allenamento. A proposito, potete naturalmente continuare a scriverci su Facebook, potete anche seguirci su Twitter. L'hashtag di oggi è Faccio cose, vedo gente. Potete come sempre chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24. Professor Iannoccari, sono tutte donne, ma sarà un caso? Direi di no, è una tradizione. Tradizionalmente le donne sono più capaci di lavorare in multitasking, anche se l'uomo ultimamente si è affacciato a questa nuova attività, per cui anche lui trova di moda fare più cose contemporaneamente. Dobbiamo fare più cose insieme, ma anche se lei, come ha sottolineato, possono essere due cose differenti, no? Un gesto automatico e invece un'attività che richiede invece la concentrazione, alla lunga stressa. Insomma, questo tenere sempre il cervello in due scarpe logora, alcuni più di altri. Alcuni sì, soprattutto perché richiede sempre una costante attivazione sia del sistema mentale, quindi del cervello, sia anche del sistema fisico. E in più ci sono anche delle implicazioni a livello del cervello, perché noi quando lavoriamo in multitasking, quello che facciamo lo mandiamo in una memoria che non è quella che ci serve realmente, e mandiamo le informazioni in una memoria implicita che non sono poi disponibili per altre attività. Quindi lavorare in multitasking va bene, ma ogni tanto dobbiamo fare uno stop and go. Perché sennò perdiamo qualche colpa, ad esempio. Perdiamo qualche colpo, sì. Di concentrazione e di memoria? Di concentrazione e di memoria. Ad esempio, lei si abbiamo iniziato la nostra trasmissione con una scenetta. Abbiamo visto questo personaggio, uomo-donna, me lo dovreste dire voi, e andremo a sentire anche una ricerca che forse ci farà discutere. Ma, professor Iannoccheri, questa scenetta ha fatto delle cose in continuazione, da parlare al telefono, a ritirare il giornale, poi parlava con l'amica, si sbracciava, cercava di memorizzare il percorso per andare al convegno. Tutto in pochi secondi, in pochi minuti. Sì, ma ha mandato anche un SMS? Ha mandato anche un SMS, sì. 800 24 00 24. In questo modo voi testate la vostra attenzione. O la vostra concentrazione? Attenzione. Allora, se siete stati attenti, 800 24 00 24, chiamateci subito. E intanto restate con noi, perché molte di voi mi stanno scrivendo: certo, faccio più cose, sono decisamente multitasking, ma il professor Iannoccheri ci darà modo di provare con un test di autovalutazione se lo siamo. Ma non basta, non siamo solamente multitasking, ma possiamo anche essere multi-shifting. Signora, lei è praticamente perfetta. Racconti al nostro pubblico qual è la sua giornata tipo. Ma è così semplice. Beh, io mi sveglio alle 7, sì, e porto giù il cane, poi preparo la colazione per i miei bambini, sì, croissant e frittelle. Mi butto nel traffico, li porto a scuola verso le 8:30, alle 9 sono in ufficio, un paio di riunioni, alle 12:30 scendo per un po' di jogging, alle 13 torno a casa perché mio marito detesta i panini, sì, e io gli preparo un pranzo ipocalorico. Alle 14:30 sono di nuovo in ufficio, faccio un altro paio di riunioni, alle 16:30 ho il corso per manager. Bene, intanto che cercate di chiamare il nostro numero verde, perché si fa notte, se no. Quante cose sta facendo contemporaneamente, quante cose deve ancora fare. Molti di voi stanno sicuramente pensando, adesso che ascoltano la radio, adesso poi devo andare in banca, poi ritiro il bambino a scuola e devo chiamare la mamma, insomma, e si fa veramente molta fatica a non perdere colpi. Intanto voi continuate a chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24, misurate anche la vostra attenzione. Il nostro o la nostra protagonista ha mandato anche un SMS 349-238-6666, pronti per capire se siamo effettivamente dei multitasking. Ma voglio dare la linea a Luigia, che ci chiama dalla provincia di Monza, intanto che il professor Iannoccheri si prepara. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Luigia. Allora, io ho una perché teoria. Lei ride già subito. Intanto allora le dico anch'io perché rido, perché un ascoltatore, immagino, sì. non si è firmata, ma mi scrive: fare più cose è tipico della donna, mio marito una cosa per volta, se no va in crisi e si arrabbia. Ma non si dice che abbiano un neurone solo, Luigia? questo è quello che penso anch'io. Noi di solito facciamo tante cose assieme e riusciamo a farne qualcuna, anche sbagliamo, mentre il maschio di solito ne fa una, fa quella e di solito gli riesce bene. Bravo. Una alla volta però, Luigia. Uno alla volta. Eccole. Due, mentre facciamo 10 metri per la casa, troviamo 10 cose da fare. Senta Luigia, allora lei si fermi qua con me, perché c'è però una ricerca che, così commentiamo con il professor Iannoccheri, anticipiamo prima del test di valutazione multitasking, perché noi donne siamo convinte di rispondere, no? Ci facciamo già la diagnosi da sole. Ma c'è una ricerca che secondo me ci farà discutere. Luigia, la senta con noi. Donne multitasking, addio, sono meglio gli uomini. È quanto sostiene uno studio dell'Università di Stoccolma pubblicato sulla rivista Psychological Science. La ricerca evidenzia il fatto che seppure le donne si cimentino con maggiore frequenza degli uomini in compiti multipli, non significa che siano più brave a farlo. Secondo i ricercatori svedesi, una buona riuscita nel multitasking risiede in due funzioni cognitive: la capacità di ricordare e aggiornare gli obiettivi e la capacità di ragionare all'interno di un determinato spazio. Mentre diversi studi hanno testato l'uguaglianza di uomini e donne nelle funzioni esecutive, spiegano i ricercatori, in quanto a capacità spaziali l'uomo risulta invece superiore, ed è proprio questa qualità a determinare la superiorità maschile nel multitasking. Luigia, questo è veramente... No. Questi qua di Stoccolma, voglio dire. Sentiamo il professor Iannoccari. No. Professore. Beh, intanto volevo fare una precisazione, visto che si è detto che gli uomini hanno un neurone e usano un neurone. Non è vero. Vabbè, lei è di parte però, professor Iannoccari, no, è un maschio. Siamo in wireless. Senta, professore, sì. Ma uomini e donne, questa ricerca dice che insomma anche voi ve la cavate bene, anzi forse meglio è che non vi allenate. Noi siamo più lenti. In realtà lo studio mette in luce dei meccanismi del multitasking, questo è un ottimo risultato. È la velocità che cambia tra uomini e donne. Gli uomini fanno più cose contemporaneamente, hanno dovuto adattarsi anche loro alla vita moderna, ma lo fanno con un passo più lento. Infatti si è visto che lo stesso numero di attività viene fatto in tempi diversi. L'uomo, come diceva Luigia, effettivamente tende a focalizzare l'attenzione su un compito per volta, anche quando è multitasking dedica più tempo allo svolgimento del compito principale. Insomma, Luigia, dobbiamo metterli un po' sotto questi uomini. Intanto io la saluto, ma la invito a misurarsi con il test di autovalutazione suggerito dal professor Iannoccari, che ci fa capire se siamo effettivamente multitasking. Professore, io sono pronta. Bene. Anzi, io sono già stanca e non lo so se riuscirò a farlo. Sono sicuro che lo farà brillantemente. Il test della giornata prevede questo. Vi chiederò di fare più attività contemporaneamente. Allora, intanto partiremo con un numero. Io darò un numero e contiamo all'indietro saltando di 3 in 3. Ad esempio, do 30 e facciamo 30, 27, 24, 21, eccetera. Mentre contiamo all'indietro, sì, col piede destro battiamo, ad ogni numero battiamo, sì, il piede destro, sì, contemporaneamente tamburelliamo con le 5 dita della mano sinistra. Vogliamo iniziare col numero? Sì, vai. Sì. 24, via. Vai. Chi è che? Stefano, buongiorno da Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno Stefano, 24. Volevo fare un intervento di questo tipo. Sì. No, allora, non è un multitasking, Stefano, perché doveva tenersi a mente l'intervento e fare 24, fare 24, non ce la fa. Lo stavo facendo, però 1-0 per noi donne. Stefano, scusi, ma prego. Qua alla guerra come alla guerra, ci racconti? No, senta, io sono un batterista a livello amatoriale, mia domanda per il professore era questa: siccome credo che sia uno strumento tra i più multitasking, sì, perché devi tenere il tempo, fare le variazioni con quattro arti separatamente, è veramente molto complicato. E non riesco a capire perché, visto che voi donne siete così brave, non ci sono poche donne batteriste. No, questo non glielo so dire, però guardi, se lei ci lancia questa sfida, chissà, magari proprio tra le ascoltatrici di Radio 24 c'è una donna che suona la batteria. Credo che c'è qualcuna, però ci sono veramente pochi. Vabbè, ma perché noi ve la lasciamo, perché vi dà soddisfazione, noi vi vogliamo vedere felici, Stefano. Grazie. Complimenti, Stefano. Grazie. Buona giornata. Wow, me la sono cavata. Allora, ripetiamo velocemente il test. Si parte da un numero, il numero che scegliete voi. Andate indietro di 3 in 3 o di 2 in 2, contemporaneamente. Intanto che andate indietro, dovete battere un piede, il destro o il sinistro, lo scegliete voi, e tamburellare con la mano opposta al piede che battete. Fantastico. Ok? Benissimo. Dovremmo farcela. Se ce la facciamo, vuol dire che siamo multitasking. Ma professor Iannoccari, non è solo questione di multitasking, perché? Lo dicevamo prima, certo, riguardo al multishifting. Esatto, che cosa intendiamo con questo? Avevamo imparato un numero, una parola, ce ne fate già imparare un'altra, vabbè. Sì, il multishifting è un'altra condizione in cui lavoriamo con compiti multipli, ma in questo caso non lo facciamo contemporaneamente, ma passiamo rapidamente da un compito all'altro. Sì, mi faccia degli esempi, che io non capisco mai subito alla prima. Ad esempio, sto mettendo a posto un fiore nel vaso, poi subito dopo vedo che c'è una carta per terra, la raccolgo, sì, arrivo arriva una telefonata, rispondo subito dopo la telefonata, mando l'SMS, poi devo ricevere la mail e quindi ecco, tutte queste attività che vengono fatte rapidamente richiedono una capacità di spostare l'attenzione rapidamente da un compito all'altro. Sì. Quindi anche il multitasking, il multishifting è una nostra condizione moderna. Uno studio dell'Università della California ha messo in evidenza come noi passiamo da un compito all'altro mediamente ogni 3-5 minuti. Mm. E questa condizione sembra che sia anche vantaggiosa per due motivi. La prima, perché ci consente di staccare dal compito principale e quindi riprendere le energie per rivedere il compito principale sotto un altro punto di vista, per cui è come se rigenerassimo la nostra attenzione. Due, ricarica l'attenzione. C'è un problema che riguarda però la concentrazione, perché va a smorzare, va a interrompere il processo di concentrazione che invece è fondamentale. Quindi alla fine noi perdiamo tempo. Alla fine noi perdiamo tempo, perdiamo profondità nelle cose che facciamo. E saltiamo da una cosa all'altra. Quando uno dice sei così superficiale, salti da una cosa all'altra. Ma se è vero che fare più cose contemporaneamente può stancarci, il famoso cervello in due scarpe alla fine logora, e non sempre i risultati che otteniamo sono all'altezza, fatti per bene, ci sono anche delle attività che fatte insieme si potenziano reciprocamente. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Oh yeah. E sì, ci muoviamo e lo facciamo insieme alla professoressa Daniela Lucini, associata all'Università di Milano, responsabile della sezione di medicina dell'esercizio di Humanitas. Professoressa Lucini, buongiorno e bentornata. Buongiorno Nicoletta. È un classico, io abito vicino ad un parco e vedo le persone che corrono al mattino quando io esco con il mio cagnone, e vedo che corrono ad esempio e parlano con un amico, quindi fanno due cose contemporaneamente. Tra l'altro è stato uno dei suoi suggerimenti proprio nelle puntate scorse: per fare attività fisica portatevi dietro un amico per parlare con lui. Un amico per parlare e riuscire a fare un'attività di una intensità che ti permette di parlare con l'altra persona ma non di cantare, dicevamo. Comunque è vero, quando si fa attività fisica si possono fare altre cose, il cervello può fare anche altre cose insieme, tipo parlare con qualcuno. E questo è allenante, certo, e questo è allenante, perché se abbiamo il fiatone sappiamo che possiamo... Se abbiamo il fiatone vuol dire che è un po' troppo. Chi se lo può permettere va bene, insomma, dicevamo, i Marines corrono e cantano insieme, però riescono soltanto loro. Le persone normali, magari non troppo allenate, riuscire a cantare mentre stai facendo attività fisica può essere un po' tanto. Il parlare invece ti dà quella giusta misura e poi ti fa compagnia e non ti annoi mentre fai attività fisica. E c'è chi invece si allena, corre, ma anche nelle palestre ci sono persone che fanno pesi o il tapirulan e guardano dei video, ascoltano la musica. Anche queste sono due attività insieme, una motoria. Sono in solitaria, diciamo, però anche in questo caso il nostro cervello ci permette sia di fare dei movimenti con una certa regolarità e impegno, e dall'altra parte di porre attenzione a un film o a una musica. Anzi, addirittura molto spesso l'ascoltare della musica per alcune persone può essere da un lato rilassante o dall'altro lato dà il ritmo dell'attività fisica che poi tu devi fare. Quindi anche questo è un aiuto per poter fare attività fisica. Comunque una cosa è certa, e vorrei coinvolgere anche il professor Iannoccari: fare attività fisica aiuta il cervello, perché in quel momento si accendono pensieri, idee. Professoressa Lucini. Di sicuro, certe volte addirittura può essere che mentre una persona fa attività fisica riesce a creare delle cose, riesce a pensare e generalmente in maniera bella, in maniera positiva, a trovare delle soluzioni a determinati problemi. A me spesso capita quando nuoto che sono lì da sola nell'acqua e vedo che quello è un momento molto creativo per la mia attività lavorativa. Le cose più divertenti le faccio in quel momento. Perché parlare con un amico sarebbe impossibile, ma professor Iannocca, qua lì si rischia. Ci sono delle attività fisiche più indicate per potenziare alcune abilità cognitive, ad esempio per la memoria piuttosto che per la concentrazione, e sono suggeriti alcuni sport piuttosto che altri? intanto bisogna distinguere gli sport di squadra, gli sport in solitaria e gli sport a due. Sì. Allora, solitamente quelli che potenziano la concentrazione sono quelli in solitaria, perché noi dobbiamo essere concentrati per gestire le nostre risorse. Poi abbiamo quelli a due, invece, in cui viene incentivata la velocità di elaborazione delle informazioni, perché dobbiamo subito cogliere gli schemi di gioco e reagire in modo da poter vincere, mentre i giochi di squadra ci consentono di avere una visione più ampia, più globale di quello che sta succedendo, seguire gli schemi e intervenire quando è il nostro momento, per cui rinforza quella che è, diciamo, la visione globale di un problema. Quindi potremmo dire: dimmi che lavoro fai e ti dirò che sport fare. Professoressa Lucini, dovreste conoscervi, così ci sistemate. Molto volentieri. Va bene, ho creato un contatto. Professoressa Lucini, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, Nicoletta. Le auguro una buonissima giornata. Lei sì che è multitasking. Gianni da Sondrio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletta, buongiorno professore. Mi ha già dato una risposta poc'anzi riguardo appunto la mia problematica. Sono uno di quelli che quando inizia a fare una cosa distoglie subito l'attenzione su quella per farne un'altra, perché ritiene prioritario magari portare avanti un altro compito. Sì. Ciò implica che alla fine non magari mi dimentico quella che stavo facendo precedentemente, o comunque non le faccio bene entrambe. Mi ha già dato una risposta. Sì, però Gianni, se lei vuole, se la sente, sì, se no possiamo, sì, farla tra noi e noi, come si dice, tra sé e sé, c'è il test di autovalutazione che ci vuole proporre il professor Iannoccari per capire se siamo multishifting, no? Passabili, siamo frane, certo, o ce la facciamo. Gianni, lo faccia con me, che così ci suggeriamo. Vada, professor Iannoccari. Bene, leggerò una lista di nomi e di animali. Cioè di nomi di animali e di colori. Il compito consiste nel riferire quanti sono gli animali e quanti sono i colori che ho letto, e ricordarne anche i nomi. Essere e benessere. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Gianni, è ancora in linea con noi? Presente. Oh, magnifico. Ok, perché io sono qua con il professor Iannoccari pronte per fare l'autotest per capire se siamo multishifting. Io e Gianni da Sondrio non lo siamo, poi ci dirà cosa dobbiamo fare, ma magari i nostri ascoltatori vogliono misurarsi. Professore. Bene, quindi un doppio compito contemporaneamente. Leggerò nomi di animali e di colori. Ditemi poi alla fine quanti sono gli animali, quanti sono i colori e i nomi di entrambe le categorie. Inizio. Vai. Cane, tartaruga, bianco, verde, scimmia, rana, viola, rosso. Via. Allora, Gianni? Sì, vado io? Sì, vada. Allora, sono quattro animali e quattro colori? Vai Gianni, benissimo, fantastico. Dai. Adesso il bello viene ora. Allora devo dire il cane. Il cane c'era. C'era il cane, c'era la scimmia. Ecco, cane, scimmia, tartaruga. Sì. La tartaruga, bravo. Il gatto. Il gatto, no, non la rana, vabbè, ma 3 su 4. su 4. E andiamo ai colori. Colori, mi sembra che ci fosse il bianco. Sì, rosso. Il viola. Sì. Viola. Gianni, ma noi siamo una coppia che spacca, eh? Mamma mia, ma qua non abbiamo più paura di nessuno. Io e lei ci abbiniamo, con due ne facciamo uno. Fantastico. Gianni, l'altro colore qual era? Il verde. Ecco, è il verde. Allora, un esercizio per chi deve abbinarsi con me o con Gianni per indovinare tutti questi animali e questi colori. In pratica, per diventare multishifting, dato che la società ce lo impone, qual è? Allora, decidiamo qual è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere quando iniziamo un'azione. Ad esempio, prendo una maglia che è appoggiata sul divano. Sì. Ecco, non faccio nient'altro finché non porto la maglia dove ho deciso di portarla. Per cui ci diamo un obiettivo, e dirò: devo portare la maglia nel cassetto del comò. Va bene? Sì. Ecco, non faccio null'altro finché questo non è completato. È come se avessi un semaforo davanti, sì, che mi dà lo stop finché non finisco il mio compito e poi mi dà il verde per fare altro. In questo modo noi monitoriamo quello che facciamo ed evitiamo di accavallare le faccende. Quindi ci alleniamo a fare una cosa alla volta, senza perché, perché in effetti potenziamo la nostra concentrazione. Assolutamente sì. Gianni, poi le faccio sapere. Intanto le faccio arrivare a casa un libro della libreria di Essere Benessere. Grazie per la aiuto Gianni. Grazie a voi. Abbiamo Daniela da Torino e Mara da Pordenone. Daniela, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno a lei. Buongiorno. Eccoci. Daniela? Mi dica. No, sì, mi dica lei. Io interverrei per una questione relativa agli alunni. Sì. Vorrei consigliare, se è possibile, a tutti gli alunni di apprendere un metodo. Sì. Ed è quello di fare tre azioni per apprendere meglio le lezioni a scuola. Dai, sì. Ok, quindi ai genitori passatelo oggi pomeriggio ai vostri ragazzi. Vada Daniela, sì, il metodo. Praticamente ripetere qualsiasi tipo di lezione davanti allo specchio. Sì. Il fatto di porsi davanti a uno specchio è un ottimo distrattore dell'attenzione. Ripetere la lezione è molto più difficile farlo davanti a uno specchio e ancora di più camminando. Quindi portarsi uno specchio dietro e camminando e ripetere la lezione. Questo funziona, sì, perché permette di memorizzare tutti i concetti. Permette di affaticare quello che è la concentrazione. Mm. Quindi la seconda volta che si ripete praticamente la lezione. Sì. Quello che si deve apprendere aumenta la capacità di essere distratti. Professor Iannocari, lei lo conosceva questo metodo? Questo metodo. Grazie per Daniela da Torino per averci suggerito questa combinata di specchio e di camminata. Daniela ci ha dato un ottimo suggerimento, perché noi in questo modo facciamo sì che la nostra memorizzazione riesca a resistere nonostante ci siano dei compiti distrattori, come diceva. Guardarmi allo specchio significa distrarmi, va bene? Per cui se ripasso la lezione e mi guardo allo specchio mentre sono distratto e riesco ad apprendere la mia lezione, vuol dire che la quindi tenuta ci mettiamo è alla prova. E a proposito di prova, di attenzione, sì, noi vi abbiamo, anzi il professor Iannocari, per allenare, per capire se eravate attenti e per invitarvi a lavorare sulla vostra attenzione, vi ha fatto una domanda relativa alla scenetta che con voce camuffata l'avevamo proprio fatta apposta, perché il multitasking divide un po', no? I ricercatori, c'è chi dice che siamo più brave noi, c'è chi dice ce lo dimostrerete, per il momento noi non lo vediamo, siete bravi voi, allora l'abbiamo fatto un po' camuffare, ma sentitela. Prendo il treno delle 7:30, dico al cellulare a Paolo mentre controllo l'orologio della stazione e cerco di ritirare il resto dal giornalaio che mi allunga il quotidiano che caccio in borsa prima che cada per terra. Nel frattempo vedo Lorenza, mi sbraccio per farle segno di raggiungermi. Intanto Paolo al telefono mi dà le indicazioni per raggiungere il convegno. E mentre cerco di memorizzare il percorso, timbro il mio biglietto e salgo in treno. Professor Iannocari. Benissimo, quindi testiamo la nostra attenzione e proviamo a rispondere se c'era un SMS tra i compiti che stava facendo il protagonista e se per caso stava andando ad un convegno. Essere e benessere. Mandavo un SMS, andava al convegno, ma 800240024 dalla libreria di Essere Benessere, Mangiare ti fa bella del dottor Ongaro, un libro di cui abbiamo parlato ieri, fresco fresco di stampa, quindi chiamate il nostro centralino, misurate la vostra attenzione. Mara, buongiorno da Pordenone, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Multitasking, niente, multishifting, multiniente? Guardi, non saprei, penso multitasking ma un po'... Per necessità? Sì, sì. Io ho 43 anni, lavoro, faccio l'educatrice. Sì. E dopo aver preso, ho quasi terminato un percorso di studio, ne ho intrapreso un altro, ho deciso di andare anche a fare l'università. E quindi tra il lavoro, le due scuole, impegni di casa, sì, devo dire che la cosa è abbastanza faticosa, soprattutto per memorizzare. Vogliamo chiedere un consiglio al professor Iannoccari per Mara e per tanti di noi che si ritrovano impegnati su più fronti? Sì, dobbiamo stare attenti quando facciamo troppe cose contemporaneamente, cioè nello stesso periodo, perché diventa meno accurato il modo in cui ricordiamo poi quello che ci interessa, soprattutto se abbiamo impegni di studio universitari, la nostra memoria deve essere assolutamente ligia e svolgere il suo compito al meglio, e per fare questo deve immagazzinare le informazioni nella regione dell'ippocampo, che è quella che poi ci consente di recuperarle facilmente e di renderle esplicite. Mentre se siamo in velocità, queste informazioni vanno a finire in strutture sottocorticali, che sono per esempio il nucleo dello striato, che invece conserva le memorie implicite, per cui noi le abbiamo apprese ma non riusciamo a cavarle fuori. Quindi noi dobbiamo puntare dritto all'ippocampo, questa è la direzione. Assolutamente. E come si fa? Come si fa? Dedicandoci uno spazio sufficiente per quello che dobbiamo fare, senza sovraccaricare il sistema, perché questo nuoce gravemente alla memoria. Pietro ci chiama da Ancona, buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno a lei. Volevo chiedere al professore, appunto, nel caso in cui, perché si diceva prima che gestisse le proprie faccende, diciamo così, una dietro l'altra, dal famoso semaforo rosso, semplifica la vita. Il punto è, quando invece io devo mettere l'azione di quel momento in un contesto più complicato, quindi devo capire se fare prima o farla dopo, mi diventa tutto più difficile. E poi certo, dimentico a volte anche le cose più stupide, proprio perché faccio prima A, B, poi F e magari dimentico B. Certo, quindi in questo come caso la capisco, quindi è un problema di priorità e di memoria, poi si dimentica. Sì, il nostro sistema ha una sorta di collo di bottiglia, per cui dobbiamo tenere conto che volendo far passare troppe informazioni qualcuna la perdiamo, è inevitabile. E quindi cosa dare le priorità, predisporre un elenco di priorità, possibilmente 3 per volta, non di più, e questo ci consente di non dimenticare una delle 3 informazioni. Lei ha preparato infatti degli esercizi, dei compiti da fare a casa, che noi metteremo naturalmente sulla nostra pagina di Facebook, ma che vogliamo dare anche agli ascoltatori che non sono amici di Facebook nostri, quindi malissimo, magari non scaricano la puntata, super male, ma comunque noi siamo generosi e vogliamo allenare anche loro, chissà mai che poi facciano le due cose, no? Ci ascoltano, scaricano, scrivono, ecco, vi vogliamo così. Allora, alleniamoci. Bene, come sviluppare il multi-shifting? Mettiamo davanti a noi una radio, un cellulare o un PC, una rivista o un giornale e un foglio di carta. Poi prendiamo un timer e lo puntiamo in modo tale che suoni ogni 2 minuti. Ogni volta che suona, cambiare attività, quindi se stiamo leggendo o scrivendo un SMS, allora passiamo alla rivista, sfogliamo la rivista, leggiamo i titoli principali, dopo i 2 minuti leggiamo, facciamo dei calcoli sul foglio di carta oppure navighiamo su internet e così via. Man mano si diventerà più abili nel far questo, quindi che cosa facciamo? Usiamo un trucco, riduciamo il tempo del timer, quindi da 2 minuti lo portiamo a 90 secondi e man mano lo facciamo scalare sempre di più, fino a che noi riusciamo a fare più cose in sequenza, va bene, in modo perfetto, impiegando pochissimo tempo. Allora, non resta che allenarci. Non resta che allenarci. 800 24 00 24, se volete mettere alla prova la vostra attenzione, quindi dire se il nostro protagonista della scenetta mandava SMS ed andava ad un convegno. Ma noi andiamo subito invece a salutare il dottor Luigi Ballerini, buongiorno, medico, psicoanalista freudiano, scrittore, che con noi ha accompagnato, ideato un esercizio che ha avuto grande successo, un esercizio di scrittura. Dottor Ballerini, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Allora, stavo pensando a lei, pensando a che cosa dire, alle 120 parole, al nome della persona che ha scritto il quinto racconto, e andavo in palla. Dottor Ballerini, insomma, le passo la parola. Ma allora, direi che che la nostra proposta è stata un successo perché abbiamo ricevuto tantissimi racconti ed è stato difficile anche scegliere quelli che erano più belli. Il criterio di scelta è stato quello di chi è riuscito a raccontare meglio, di chi è riuscito a esprimere sentimenti, emozioni, pensieri che gli sono venuti con l'incipit vincolato che avevamo dato, no? Che era la primavera tardava ad arrivare e alla radio intanto. E ad esempio l'ultimo che abbiamo fatto vincere è proprio Vincere, che poi in realtà abbiamo selezionato, diciamo, sì, così, è un racconto di genere che è difficile perché è un racconto specifico di fantascienza e cosa, ma direi che è stato forse uno dei migliori, ma davvero tutti sono stati bravi quantomeno a provarci nel raccontarsi tramite solo 120 parole. Con un incipit vincolato, un esercizio che noi riproporremo naturalmente insieme al dottor Ballerini sotto altre vesti? Sì, lo riproporremo presto. Proprio per aiutare un po' gli ascoltatori, le ascoltatrici a scrivere su un foglio le loro emozioni, i loro pensieri. È un esercizio di scrittura, tra virgolette, che fa bene al cuore. Giusto, dottor Ballerini? Si fa bene al cuore, si fa bene al cuore, poi fa bene alla testa, fa bene ai pensieri e farà bene a tutto il corpo. E poi se noi ci alleniamo, come ci ha detto il professor Ian Noccari, mentre scriviamo magari giriamo il sugo, battiamo il piede, tamborelliamo con le altre cinque dita. Grazie al dottor Ballerini per essere stato con noi. Arrivederci. E grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che hanno partecipato, ci hanno mandato le loro 120 parole, ci hanno raccontato un po' le loro emozioni, i loro pensieri, è stata veramente una cosa emozionante. E abbiamo Angelo che ci chiama da Vicenza. Buongiorno Angelo, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Ma mi dicono che lei è pronto ed è stato attento. Vediamo, Angelo, cosa faceva il protagonista della nostra scenetta? Mandava sms? Andava ad un convegno? No, non mandava sms e si recava a un convegno. Benissimo, perfetto. Allora Angelo riceverà a casa un libro fresco fresco di stampa, Mangiare ti fa bella e anche ti fa bello, Angelo, magari lei non ne ha bisogno, ma insomma tutto aiuta. Grazie Angelo per essere stato con noi, complimenti. Grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie molte Angelo. Professor Ian Noccari, noi possiamo salutarci, io la ringrazio per essere stato con noi, ricordo ai nostri ascoltatori che metteremo i suoi esercizi, il compito per essere multitasking e multishifting. Alla prossima puntata noi dovremo parlare assolutamente di memoria, i nostri ascoltatori lo chiedono, anche la mia memoria ormai facilecca. Grazie professor Ian Noccari. Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Ancora 10 secondi per augurarvi un buon weekend e dirvi che come sempre vi aspetto lunedì. Essere e benessere.